dentro il mio cuore un immenso ed eterno amore. Canto affinché si diffonda in tutti noi, e credo che la speranza sia un dono che scenda dal cielo pronto ad avvolgere tutti noi. E fai girare l'amore ed apri il tuo cuore, senti questo calore, non lasciarlo mai. E fai girare l'amore ed apri il tuo cuore, e senti questo calore, non lasciarlo mai. Eterno amore, canto che si diffonda in tutti noi, e credo che la speranza sia un dono che scenda dal cielo pronto ad avvolgere tutti noi. E fai girare l'amore ed apri il tuo cuore, e senti questo calore, non lasciarlo mai. Fai girare l'amore ed apri il tuo cuore, e senti questo calore, non lasciarlo mai.